dei problemi con gli IP. Non conosce i DNS di Google. Invece quando spero dimenticato la PC della volatilità. E poi noi guidiamo nelle strade e rischiamo di morire per colpa sua. Di scuola guida thank you.